È bello essere insieme, è bello vedervi, perché la vostra fedeltà, la fedeltà di ognuno di noi, è un incoraggiamento per l'altro. E di questo anche noi dobbiamo nutrirci, dobbiamo veramente essere orgogliosi del fratello. Siamo qui per lodare, per glorificare il Signore, qualsiasi cosa viviamo, qualsiasi momento stiamo attraversando. Anche, ecco che perciò però mo dico, manteniamoci bene bene calmi e tranquilli, perché anche la nostra coppia pastorale ci sta seguendo. Sono andati a Mottola, quindi ci seguono tramite streaming. Perciò manteniamoci calmi, lo devo dire a me stesso. Va bene, è bello, salutiamo Mottola, perché è bello averli, è parte di noi. Sono noi, siamo noi, insieme, che bello. Ora, questa mattina affronteremo un argomento che mostra quanto attuale è la parola di Dio, anche negli argomenti, come li vogliamo chiamare, più spinosi, negli argomenti più difficili da comprendere, negli argomenti più da visualizzare materialmente nella nostra vita quotidiana, come il soggetto che stiamo trattando dell'eternità. E anche domenica scorsa è molto bello, era un bel chiancone da ingoiare. Dio è sovrano su tante cose proprio, ma è così, Dio è sovrano. E noi questa sovranità vogliamo vivere. Perciò leggiamo un passo dalla parola di Dio, che bello anche le proiezioni, lo streaming, tutte queste cose. Ne facciamo uso? Attenti all'abuso. Perché anche adesso, quanti ci stanno seguendo in streaming? Ora, togliamo quelli che sono fuori, togliamo quelli che ci seguono da lontano, ma io parlo a quelli di Modugno. Seduti belli nella poltrona, tanto c'è lo streaming, ma non c'è la chiesa. Allora, attenti all'abuso. Va bene, era una parentesi, ma ci sta anche. Leggiamo la prima parte di un verso incredibile, Apocalisse, al capitolo 22, il penultimo verso. Leggiamo solo la prima parte, ed è questa. Colui che attesta queste cose, e cioè il Signore Gesù, che tutto quello di cui l'Apostolo Giovanni ha avuto in visione, dice: sì, vengo presto. Un amen. Un amen. Questo già la dice lunga su come viviamo queste cose, eh? È incredibile, sì, è vero. Però, fratelli e sorelle, noi dobbiamo guardare a questo. Perché? Perché semplicemente perché è il nostro futuro, è non remoto, è il nostro futuro. Gesù viene, Gesù ritorna e Gesù è dentro di noi, e questo è pure già un ritorno che noi possiamo mostrare. È vitale per noi vivere questo in ogni situazione che viviamo, in ogni cosa, perché, lo torno a ripetere, è il nostro futuro. Vedete, ognuno di noi programma il suo futuro. Anche adesso, quelli che non mi stanno ascoltando stanno programmando come apparecchiare la tavola, e che cosa mangiare e come mangiarlo. Non sono lontano. Oppure, ecco, uno che diceva no, perché voi non state programmando il vostro matrimonio e tutto. Vedi, ognuno di noi programma nei minimi dettagli e lo fa e lo rivede e lo sogna e lo immagina. Beh, questo deve essere per l'eternità che noi viviamo. Noi la dobbiamo immaginare, la dobbiamo sognare, la dobbiamo vivere in ogni situazione della nostra vita. Perché? Perché è la nostra realtà futura, ma anche di oggi. Ecco perché noi dobbiamo vivere ogni cosa in funzione dell'eternità. Però, ancora più interessante, di va bene, Gesù viene, va bene, lo so, verrà, un giorno verrà, ma la risposta che a me ha toccato molto è la risposta dell'Apostolo Giovanni. Vedete che cosa dice? Che dice? No. Sapete che cosa dice? Amen! Che vuol dire, Signore, che cosa stai aspettando? Vieni! Perché? Vieni, perché è ora. Questo è il momento. Vedi tutto quello che stiamo vivendo, è la pandemia, è le guerre, è il clima che cambia, è le cose incredibili. Quando seguiamo il telegiornale sembra un bollettino di non lo so di che cosa, che ci porta verso un precipizio. Ecco perché anche Giovanni viveva le stesse cose. Vedete che Non è dissimile da noi, anche lui vive, perché lui, non lo dobbiamo dimenticare, che quando ha scritto la visione che ha avuto, si trovava dove? A Patmo, era prigioniero, era, come si dice, non prigioniera, esiliato, era esiliato. Quindi stava come in una forma di carcere. Quindi pensate quello che lui stava subendo. E allora quella amen, vieni Signore Gesù, veniva proprio dal cuore, dalle viscere, da dentro. Non aspetto altro, questo è il mio futuro. Che preghiera, è anche la nostra, perché noi, come ho detto, viviamo le stesse cose, viviamo identico. Vedete che come è attuale la parola di Dio, è incredibile, sembra che sia cose, sì, Gesù viene, e poi le viviamo nella pratica quotidiana, nella nostra famiglia, nel nostro lavoro, in tutto quello che facciamo, lo viviamo continuamente. E quante volte anche noi abbiamo fatto questa preghiera, forse non con quell'amen forte, però Signore, per piacere, vieni. Come per dire, non ce la faccio più. Avviene, viene qualche volta, viene qualche volta. Perciò io voglio vedere quello che noi viviamo oggi in rapporto a quello anche che l'Apostolo Giovanni viveva e che gli ha fatto dire, sì, vieni, amen, vieni Signore Gesù. Per quale motivo? Io ne ho preso tre, perché guardando a me stesso, guardando a noi stessi, il primo aspetto è il desiderio dell'eternità. C'è il desiderio in ognuno di noi, quando le cose vanno malamente, quando non stiamo bene, quando soffriamo nel nostro corpo per infermità o per altri motivi, c'è il desiderio e l'eternità, c'è il desiderio, sì, Signore, Signore vieni. Però Paolo ci apre gli occhi, ecco l'attualità della parola di Dio, è incredibile, fratelli e sorelle, nutriamoci. Che cosa si leggeva oggi? 1 Samuele, preparate, pastore, l'hanno detto tutti, Sì, continuiamo, è un bel programma quello di leggere la parola di Dio insieme. Sai come riempie il cuore? Io so che alla mattina, non tutti, ma molti con me stanno leggendo 1 Samuele, i pensionati soprattutto. Chi va al lavoro va presto, ma va bene, poi lo fa. Desiderio dell'eternità. Paolo ci apre gli occhi e dice questo, è scritto in Filippesi al capitolo 1, al verso 23. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire e di essere con Cristo, perché è molto meglio. Scagli per primo la pietra chi non ha mai fatto un pensiero del genere. Ma dall'altra parte il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Tu, io siamo necessari per l'altro. Non vivi per vivere. Il Signore non ti ha tratto fuori dalla fossa delle infermità o del pericolo o della morte quasi imminente per tenerti tanto per tenerti in vita, ma perché ha uno scopo e un obiettivo con te, con me, con tutti quanti noi, perché è meglio per l'altro, è meglio per il tuo fratello, è meglio per quelli di fuori che tu ed io ci siamo, che tu ed io siamo ancora qui, altrimenti è meglio andare con il Signore. Essere con il Signore, l'eternità con il Signore è meglio. Noi lo diciamo, abbiamo avuto anche un funerale l'altro ieri, forse sarà poi nelle notizie, si ribadisce, la sorella Leonarda che non tutti conoscono, ma era molto molto molto inferma e tutti noi, il fratello compreso e tutti quanti noi abbiamo detto è meglio per lei. La sofferenza l'aveva completamente quasi annullata. Allora molte volte è meglio, noi lo diciamo, essere con il Signore è meglio, però tu ed io siamo utili qui per annunziare l'Evangelo, per essere la testimonianza vivente di quello che il Signore è capace di fare nella nostra vita, di quello che il Signore è in grado di fare tramite noi, che forse altri ci hanno sempre considerato da niente, di meno, inferiori, che ne so io, però poi vedono il tuo comportamento, vedono il mio comportamento e si ricredono il più delle volte e dentro di loro non vi preoccupate che non ascoltano, che vi mandano malamente o che fanno finta che non è niente. Dentro di ognuno di noi viene la riflessione nel vedere l'altro come agisce e come si comporta, e noi, perché anche noi ci confrontiamo in questa maniera. Perciò l'annunzio dell'Evangelo è l'utilità perché tu sei qui, il mostrare Cristo è l'utilità perché noi siamo qui. Ma continuiamo perché abbiamo altri aspetti. Il secondo aspetto che secondo me ha fatto dire a Giovanni Amen, Signore Gesù, vieni, è la malvagità che viviamo. Vabbè. La malvagità che viviamo, che viviamo, che ci è addosso, che ci avvicina, che subiamo, che è intorno a noi, e là ti fa dire vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Ma sapete, anche è vero, viviamo tutta questa malvagità e noi lo leggeremo adesso e ci rendiamo conto, torno continuamente a ripeterlo, quanto è attuale, quanto è reale la parola di Dio nella nostra vita quotidiana. Non è un libro ascetico che ti porta in un'altra dimensione, è una realtà quotidiana che noi viviamo e la parola di Dio la illustra e dà anche la risposta. Leggiamo in dov'è? Due non, due Timoteo, ah c'è già, questo è bello perché così non devo cambiare gli occhiali e tutto quanto. Ora sappi questo. Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, ma questo l'ha scritto Paolo più di 2000 anni fa. E sembra che è stato scritto dall'ultimo notiziario alla televisione. Perché gli uomini saranno egoisti. Proprio ieri hanno fatto vedere dei tre uomini più ricchi del mondo che sono appassionati dei missili e che vanno nel... E loro hanno detto, come notizia, basterebbe il 10% di quello che tutte e tre posseggono per togliere la fame e la fame dal mondo. Non voglio dire che quelle persone sono egoiste, perché poi è probabile che sono, ma voglio intendere quello che anche noi viviamo. Amanti del denaro, vanagloriosi, molte volte amanti del denaro, molte volte dobbiamo accumulare denaro. Io lo voglio dire perché dobbiamo accumulare denaro. Perché? Perché accumuliamo molte volte denaro alla banca o dovunque l'accumuliamo? Perché? Perché non si sa mai. E non si sa mai che cosa. Che muoio e li lascio. Non si sa mai che cosa. Utilizza quello per l'opera del Signore e vedrai quanto frutto portano. Va bene. Vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio. Non viviamo tutto questo? Più attuale di questo, dove lo andiamo a trovare? Si vive proprio anche in tutti gli altri che noi vediamo intorno a noi, e molte volte anche noi viviamo aspetti di questo genere. Ecco perché la nostra reazione deve essere la nostra testimonianza, il cambiamento di vita, quello che noi viviamo in funzione della parola di Dio. E quando tu mostri questo, mostri che stai combattendo tutte queste cose e le stai combattendo in una maniera equilibrata, giusta e bella. Ok, andiamo al terzo punto. O terzo aspetto, la promessa. È promessa di Dio. Sì, io vengo presto. È promessa del Signore. Leggiamo 1 Timoteo 4:8. Ci sono diversi passi questa mattina proprio per dimostrare quello che la parola di Dio dice e quanto attuale è. Perché l'esercizio fisico è utile a poca cosa. Non ha detto che è inutile, va bene? Quindi se andate alla palestra, quello che non è detto, va bene. Però è utile a poca cosa. Mentre, e qui è il punto per noi, la pietà è utile a ogni cosa, ascoltate adesso, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. L'eternità non è per il dopo, l'eternità è oggi. E noi che oggi ci nutriamo dell'eternità del Signore, è oggi che noi possiamo investire in quello che il Signore ha dato a noi. E anche per domani, certo, perché ogni investimento di oggi, ogni ubbidienza che noi oggi facciamo a quello che il Signore ci chiede, è un investimento per domani. Perciò, per piacere, non viviamo la menzogna di rincorrere i nostri pensieri negativi e catastrofici e il nostro dire sempre in maniera negativa, ma viviamo l'eternità di Dio, ma il Signore ha promesso, ma è promessa di Dio. Confessa le promesse di Dio, confessale davanti allo specchio. Confessale a te stesso, anzi proclamale queste promesse. perché in questa maniera ti nutri di quello che il Signore vuole realizzare con il tuo oggi e con il tuo domani. Ti nutri del positivo, ti nutri e ti riempi dell'eternità. E in tutto quello che vivi, non dimenticarti di dire mai, mai, mai quello che abbiamo ascoltato domenica scorsa. Dio è sovrano. Ma io non sto bene. Dio è sovrano, ma la guerra e le porte hanno calcolato i chilometri. Dio è sovrano, Dio è sovrano su queste cose. Comunque, poi dobbiamo dire anche proprio da parte mia che la domanda rimane, ma allora tutto questo e perché non ritorna? Se continuiamo a farci questa domanda, non facciamo altro che roderci dentro e non avere la risposta, perché non è diritto tuo, non è diritto mio avere la risposta, non è diritto mio, non è diritto tuo comprendere. Dio è sovrano. Anche su questo Dio è sovrano, e nel momento in cui noi ci sottomettiamo anche a quello che non comprendiamo, noi stiamo proclamando l'eternità di Dio, noi stiamo annunziando l'eternità di Dio. Aiuta, quando noi proclamiamo questo, aiuta l'oggi a viverlo bene sotto la signoria del Signore. Quando noi proclamiamo che Dio è sovrano, noi ci sottomettiamo e vediamo la grandezza di Dio, e questo riempie il cuore, e questo rianima, e questo mette gioia. Un aneddoto, so che metterò in imbarazzo mia moglie, ma lo faccio. Mia moglie, quando mia moglie mangia un pezzo di cioccolato, gli piace, non lo fa spesso, ma quando lo fa, la vedi proprio godere. Però poi alla fine dice, ma lì sarà molto più buona e molto meglio. E questo vive anche quando c'è un canto che la emoziona, o quando c'è un passo della parola di Dio. Qualsiasi cosa io sto facendo, me lo deve dire. Qualsiasi cosa sto facendo, perché l'ha preso e la rende gioiosa. Ma con il Signore l'eternità sarà molto di più. Perciò immagina, perciò confronta, però dici sempre alla fine, sarà molto meglio, come Paolo diceva, sarà molto meglio, sarà molto, molto più buono quello che noi andremo a vivere. Anzi, io voglio dire, e questo dobbiamo anche imparare noi uomini, grazie Signore per la moglie che mi hai dato. Siete d'accordo? Che noi uomini su queste cose siamo un po' più razionali, viviamo più con i piedi per terra, io dico qualche volta sottoterra, però, no, non intendevo quello, invocare proprio la Madonna va bene, ma sai che facciamo? Facciamo un esercizio. Invito a tutte le coppie di alzarsi in piedi. Ci sono tanti. Ora, anche ai fidanzati, sono sempre una coppia. Ho detto coppia, non ho detto sposati. Ora guarda tua moglie negli occhi e digli grazie Gesù che mi hai dato questa moglie. Lo devi dire. Era sussurrato, ma l'abbiamo detto. Ma l'abbiamo detto. È un buon esercizio. Ma questo vale per tutti, anche per coloro che non hanno un partner, un fidanzato, una fidanzata. Dici: grazie Signore per quello che mi stai preparando, qualsiasi sia la condizione, anche per i vedovi e per le vedove, è la stessa cosa. Grazie Signore perché... Michele? Beh, si può dire anche per i mariti, certamente, ma io ho fatto la premessa, Michele, ho detto noi siamo più razionali in questo, le mogli lo dicono di più, noi un po' di meno, se dobbiamo essere proprio onesti, onesti. Però certamente anche le mogli, mia moglie lo dice, è come un rosario giornaliero, almeno 3 volte al giorno. Ma tu mi vuoi bene? Eh? E io devo dire perché è così e non dà mai noia. Era solo una parentesi, però fa bene fare questi esercizi. Ora, per andare vicino alla conclusione, che bello, l'orologio non c'è più. Oh, cioè, ma non lo vedo, e quello è buono, non li metto gli occhiali. Ora voglio mostrarvi quello che è il mio motivo che mi fa dire sì, Gesù ritorna. Il mio, che è sempre biblico, lo andiamo a leggere in 2 Corinzi. Anzi, no, facciamo una cosa, questo è un passo che va letto in piedi. Questo è un passo che va letto in piedi. 2 Corinzi, capitolo 5, dal verso 18 al 20. Leggiamolo veramente tutti quanti. E tutto questo viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Infatti Dio era in Cristo nel riconciliare con sé il mondo, non imputando agli uomini le loro colpe, e ha messo in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Non è speciale, accomodatevi, era proprio per dare onore a questo passo. Non è qualcosa di stupefacente, cioè detto in maniera semplice, Dio ha voluto fare pace con noi e siccome noi non eravamo in grado di fare questa pace con Lui, riconciliazione, ha mandato il Figlio a darci quel senso dell'eternità e ci ha riconciliati con il Padre. Però dall'altro canto che cosa viene detto? È vero, Dio ti ha voluto riconciliare con sé, è vero, ha mandato Cristo Gesù affinché tu fossi riconciliato con Dio, che io fossi riconciliato con Dio, ma ora io, abbiamo ricevuto il ministero, ognuno di noi, della riconciliazione, noi siamo distributori della riconciliazione, siamo distributori dell'eternità. Ora, se tu pensi a un distributore di carburante o pensi a un distributore di caramelle, di cioccolatini, che ne so io, affinché può distribuire deve essere a lui a sua volta riempito. Allora dobbiamo essere a nostra volta riempiti. Grazie Giuseppe, che bello. Dobbiamo essere a nostra volta riempiti per poter distribuire. Ma hai avuto il ministero della riconciliazione. Non è così che quando mi capita o quando mi va bene io mostro Cristo e dico della mia vita con Gesù. No, noi abbiamo l'obbligo, perché abbiamo ricevuto il ministero, e il ministero vuol dire servizio. Siamo servi di Dio per servirlo in questo ministero, dovunque ci troviamo, qualsiasi cosa ci facciamo. Non è come si diceva una volta, mo mi sconverto per 5 minuti. Non c'è, noi mostriamo Cristo in tutto quello che facciamo, e in questa maniera noi stiamo distribuendo eternità, speranza attraverso la nostra fede, accendendo anche la fede degli altri, e quindi eternità. Se facciamo affievolire la fede e la speranza dentro di noi, sapete che succede? Stiamo perdendo per strada pezzetti di eternità. E non solo questo, ma facciamo perdere anche agli altri, a chi ci è vicino, la nostra famiglia, i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro, facciamo perdere la seconda opportunità che Dio ha dato di riconciliarli a sé. E il Signore stesso ha detto: vi supplico. A questo noi siamo chiamati, a distribuire eternità e non a perdere eternità. Gli affanni, la routine, la poltrona, lo streaming aggiungo. Sempre considerando quelli di Modugno, sono i maggiori artefici dei pezzettini che perdiamo. Quando noi viviamo le cose con routine e non con entusiasmo e con gioia, il servire il Signore in qualsiasi posto, in qualsiasi maniera, qualsiasi cosa ci è stata affidata o ci viene chiesto, e non lo viviamo nella gioia, noi perdiamo e facciamo perdere. Noi perdiamo e facciamo perdere. Paolo dice, lo leggiamo insieme quello che Paolo dice. Dice: siate imitatori, fate come? In Ebrei leggiamo, in Ebrei, vedete bene quello che dice l'apostolo Paolo. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Ascoltate, leggete, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. Gesù era davanti alla croce, e non era una sofferenza da poco, che non possiamo, ringraziando Dio, nessuno di noi paragonare a quella sofferenza. Solo i due ladroni si potevano paragonare. Una sofferenza incredibile. Che cosa ha fatto in quel momento? Ha sognato, ha visualizzato, ha programmato per la gioia che gli era posta dinanzi. Che cosa ha sognato? Il trono. Che cosa ha sognato? Essere alla destra del Padre. Che cosa ha sognato? Aver realizzato il mandato che il Padre gli aveva affidato. Che cosa aveva realizzato? Aveva realizzato la salvezza del mondo intero per chi lo accetta. In visione di questo, la gioia era infinita dentro di lui. Questa gioia, mentre nel corpo, mentre naturalmente stava patendo le pene più grandi che un uomo possa patire, il patibolo, che ne so io, la tortura e tutto quanto, e ha sofferto tutto questo. Quando noi siamo nella sofferenza o viviamo dei torti, a questo dobbiamo guardare, la gioia che ci è posta dinanzi, non alla sofferenza del momento, perché ne vieni schiacciato due volte, dalla sofferenza che c'è e dal pensiero che ti fa soffrire della sofferenza. Allora la gioia, e quindi terminando voglio dire, se vedi venir meno la gioia di servirlo nelle piccole come nelle grandi cose, di annunziarlo. La parola di Dio dice quando c'è l'occasione o quando non c'è l'occasione, la crei. Stai perdendo pezzi dell'eternità. Se perdi la gioia di servirlo con entusiasmo, stai perdendo pezzi di te stesso, stiamo perdendo pezzi di noi stessi, stiamo facendo perdere pezzi di noi stessi, perciò strappiamoci di dosso veramente, io lo supplico proprio come il Signore stesso ha supplicato dicendo togli via dai pensieri e dai sentimenti questa menzogna, vabbè poi tanto è dopo, poi dopo vediamo, oppure va bene l'eternità, quando sarà? No, è oggi, è adesso, è in questo momento, costruisci parlando delle promesse, costruisci immaginando le promesse, costruisci vivendo quello che il Signore ti ha affidato a fare, e questo dà una vita piena e gioiosa, cosa che non tutti hanno, ma tu ed io sì. Amen? Amen. Vogliamo alzarci in piedi e ringraziare il Signore. Signore Gesù, vogliamo dirti grazie. Prima di tutto per l'opera che hai compiuto verso di noi, ma grazie anche di averci ritenuti degni di poter essere ambasciatori tuoi, di poter essere i tuoi rappresentanti con i nostri limiti, con le nostre imperfezioni. A te è piaciuto prendere ognuno di noi e io ti ringrazio che in tutto questo la tua Chiesa qui e dovunque ti segue per annunziare te e per mostrare l'amore tuo a tutti. E grazie ancora per questa mattina, per noi e per Mottola, quello che stanno vivendo anche, grazie, oh Gesù, che possiamo fare e confidare in te. Amen.